con Mattia Frapporti per presentare il numero 46 della rivista Zapruder, che sarà a Napoli alla mensa occupata venerdì 25 gennaio 2019. Mattia, ben trovato. Ciao, ciao ciao a tutti e a tutte. Partiamo dall'inizio, descriviamo a chi ci ascolta cos'è Zapruder. Zapruder è una rivista di storia della conflittualità sociale, come idea diciamo nata a Genova nei giorni del G8 nel 2001 e costituisce a Bologna in un'assemblea generale fatta soprattutto di storici e storiche, ma più in generale di militanti, nel 2002. Esce in un'edizione cartacea dal 2004 con tre numeri all'anno e da allora, diciamo appunto, ne sono usciti 46. Oddio, il nostro numero è il 46, ma è il penultimo uscito perché dopo il nostro ne è uscito un altro, quindi siamo al 47, l'ultimo tratta di archivi, con una diciamo regolarità quadrimestrale, affronta varie tematiche, varie prospettive di ricerca che hanno diciamo un interesse storico, ma allo stesso tempo un interesse anche di storia militante, proprio perché la prospettiva che sta dietro a Zapruder è quella secondo cui, e qua leggo da un editoriale delle prime edizioni, la storia non si riduce al resoconto scritto delle cose così come accadute, né è uno spazio inerte, ma è piuttosto uno spazio agito da corpi che prendono posizione. Quindi Zapruder ha adottato questa prospettiva per analizzare la storia. Più o meno quante pagine per quante firme? Le pagine di ogni numero sono circa 150 e le firme variano a seconda delle rubriche che compongono il numero. Perché? Perché ogni numero si struttura secondo delle rubriche proprio, che servono proprio ad analizzare il tema del monografico da diverse prospettive. C'è la rubrica principale che si chiama gli zoom, che sono un po' gli articoli che definiscono il numero, che sono più corposi, da 10-12 pagine per articolo. Poi ci sono degli articoli un po' più brevi che si chiamano le schegge, che hanno 7-8 pagine. Poi ci sono delle immagini, c'è la descrizione dei luoghi, ci sono delle interviste. Diciamo che in linea di massima ci sono sempre almeno 10-12 firme che scrivono su, o anche 13-14 che scrivono su ogni numero. Questo numero 46 è dedicato alla logistica, ce ne parli un po'? Il numero, diciamo, nasce da una proposta mia e di Niccolò Cuppini e è un numero totalmente in ogni sua rubrica dedicato alla logistica, perché diciamo quando abbiamo proposto i numeri in redazione abbiamo presentato un pacchetto piuttosto strutturato e articolato che copre, ci sembra, in modo abbastanza completo il dibattito che si è creato attorno alla logistica in Italia, dando voce sia al versante, come dire, accademico, sia al versante dei movimenti, al versante delle lotte. Cos'è la logistica? Una definizione secca la intende come la costituzione materiale della globalizzazione, no? La struttura dell'economia politica contemporanea. Il punto è che non si tratta solo di considerarla, come dire, la rete che governa in qualche modo la mobilità delle merci, ma, e questa era la nostra prospettiva, come un vero e proprio potere politico che produce nuove forme anche organizzative che si insinuano, diciamo, nei tessuti degli stati, ma che produce anche conflitto. Tant'è che diciamo, il nostro interesse per la logistica nasce ormai 5-6 anni fa e nasce dall'osservazione, dalla militanza all'interno delle lotte della logistica che si sono sviluppate lungo tutta la valle del Po, quindi questa lunga pianura logistica che va diciamo, da Piacenza a Rimini, noi siamo distanti a Bologna. E attraverso l'osservazione, appunto, e la partecipazione a queste lotte abbiamo iniziato invitato a farci, diciamo, delle domande attorno alla logistica. Che cos'è la logistica, cosa può rappresentare la logistica? Lì ovviamente abbiamo scoperto che non eravamo gli unici a farci queste domande, diciamo, da un punto di vista teorico anche, ma che i cosiddetti critical logistics studies si stavano sviluppando, si stanno tuttora sviluppando più o meno in tutto il mondo, tant'è che approfondendo un po' l'analisi abbiamo visto che nella logistica ci sono stati, durante quegli anni, quindi a partire dal 2009 in avanti, senza alcun ovviamente coordinamento organizzativo, delle lotte, dei picchetti, delle conflittualità che coinvolgevano dal porto di Los Angeles al porto di Vancouver, lo scalo carbonifero di Newcastle in Australia, che è più importante al mondo, al porto del Pireo in Grecia. Insomma, vari territori logistici hanno avuto una conflittualità molto forte e diciamo, noi abbiamo provato a dargli una cornice teorica, e questo numero ha voluto essere un piccolo contributo a questo dibattito. Ho visto che c'è l'evento Facebook di questo appuntamento, ci lasci i riferimenti web per quanto riguarda Zapruder più in generale? Il sito, allora, Zapruder fa parte di Storie in Movimento, che è appunto la cornice entro cui si situa Zapruder, che organizza anche un simposio, ha una pagina web che è appunto su www.storieinmovimento.org. La presentazione di Napoli ha un evento Facebook che lo potete trovare facilmente scrivendo Zapruder 46 Napoli, dove peraltro saremo presenti io, Niccolò Cuppini, e dove ci sarà Giuseppe D'Alesio, il coordinatore, il riferimento dei SICOBAS in Campania, e sarà presente anche Aldo Milani proprio la sera della presentazione, ma anche perché il giorno dopo, sempre a Napoli, ci sarà un'assemblea diaria, diciamo, di compagni e compagne che gravitano attorno ai SICOBAS. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a Napoli, alla mensa occupata, venerdì 25 gennaio, per la presentazione del numero 46 della rivista Zapruder. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Frapporti, che sarà uno dei relatori. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto, ciao ciao.